Luca, su che andiamo? Gigi D'Alessio. Briciola. Allora. E siete morto già tu? Sono qua, sono comprato a Plattamona, e boh, hanno rimandato Romanino, l'attore, e mi sono ritratto a Sassari. Ah, quello del chiosco. Ma come è tutto della paglia forte in Chive, lo sanno perché la sera vanno, si va del Romanino. Ehi, adesso, cazzo che 4,50 fa io. Sei onesto. E la salsa di cantua? Sì, già lo so. Allora? Già lo so, già lo so. Ma se può mangiare cazzo un panino con un pezzo di carne, un vius, un pezzo di sacchizzone. Purtroppo ci sono le spese. Beh, è andato in chi mi va guadagnato, è andato in chi mi va... Ma come ti si dice? Vabbè, tu via. Mangiare la buca di riso, il riscio, canotti e docca. E dirci? Ehi, aspetta, hai sei mesi. Vabbè. Casotto, questo cazzo la bocca. Cosa vuoi fare? Ho fatto così, è un lavoro che è così. Purtroppo è che è sottopagato e quello non deve succedere, se non va anche bene. E io anche stanno facendo di tutto per aumentarli, perché sennò prima o poi non ci va più nessuno. Ma come ti fai? Come si può andare avanti così? Devi aumentare la tariffa, deve aumentare, cioè devono aumentare. Cazzo, uno tra benzina e cose, cioè. Minimo 8 euro, fai a 8 euro massimo all'ora, va bene, ci ricavi qualcosa, no, assai, però almeno 8 euro dovrebbero pagare. Almeno 8 euro per fare questi lavori. Purtroppo sai perché bisogna farli? Perché cosa? Perché la gente, cioè la gente purtroppo ci deve andare per forza per tirare il mese. Lo so, ragazzo, ti rimesso, se cazzo fate il conto tutto il mese di benzina ci metti 450 euro di benzina tutto il mese, quindi cazzo 900, 1000 euro, lo sai cazzo billi, ma vai. È un bel di naso, è un bel di soldi sono. No, fa, vabbè, adesso... Vediamo un po', se mi dà la risposta, mi diceva esistente, se mi dà la risposta non va a cagare a questi. Ma sono sempre la matessa storia, sempre la stessa storia. No, se vado lì sono la cifra meglio. Sai cosa mi nasce, mandamene di un altro luogo, dammi la matessa in bici. È un'altra storia quella. Se no non fa assolutamente. Aspetta un attimo, tanto che vado un attimo nel bagno a cambiare l'acquario libre. Briciola! Figa, stavo cambiando l'acquario libre, Antu. L'ha già ciambata, dai. Figa, 2 di 3 mesi. Tu devi tenere il metodo, va. Sono un meme. Cazzo, a parte scherzo, non sto bevendo acqua, c'ho la pelle cazzo secca. Sono andato al dottore ieri, l'altro ieri. Cazzo, dice che devo bere. Ah, io bevo moltissimo. No, c'ho le gambe, la pelle proprio delle gambe secca, cazzo, bevo pochissimo io di acqua. Poi io bevo molto, molta acqua. Per carità. Sono bucato, sono. Dopo mi alzo, mi faccio un po' di pulizia, mi faccio in casa. Ma tu, ti volevo chiedere, guarda che interessa un televisore della Samsung e un DVD col telecomando e tutto. Prezzo si può dire? Ho capito. Prezzo si può dire? 70 euro DVD e televisore. sponsorante, tanto so, poche mezzo esatto col televisore. A chi interessa glielo dico, perché io non me ne posso nulla. Cosa me ne posso? Mi sembra che un 45 pollici o un 50 sarà, non è piccolo, eh. Ah. Cos'è un HD in LED, cos'è? Non lo so perché non ce l'aveva il figlio della mia compagna, solo che adesso sono andato in Germania a lavorare, quindi ha detto di venderlo. L'ha usato poche niente, lo usava solo quando usava con la PlayStation. Giovani stanno tutti emigrando, stanno a massa di bagliacci, no? Che non c'è travaglio di nulla. Non c'è dove, se ha fatto, se quanti curriculum ha fatto qua, neanche uno l'hanno chiamato. Ha fatto in Germania subito, certo, la di Matte si ha detto prepara tutto che viene da noi. Qua ci vuole anche degli amministratori che sviluppino lavoro, perché non è possibile. No, qua se ne sbatte il coglione, non c'è anche altro. Dicono che c'è lavoro, dopo ti fanno lavorare balosa, ma fa 3 euro all'ora, mandi da ammazzarvi. Lo so. Bisogna cambiare un pochettino di mentalità, bisogna cambiare. Anche cazzo la zona lì di Blattamona del coso, dovrebbero fare posti di lavoro, dovrebbero fare molti di più, in modo che ci sia lavoro. Però il problema è un casino qua, boh. Lui lavoro, ma lascia perdere il lavoro qua. E non che disfruttano il anzi fa un po' lavoriamo gratis, che cazzo lavoro. Non lo so, troppe cose mal fatte. Se ne sbattono i coglioni. Se ne sbattono i coglioni qua. Io, guarda, se avrei avuto la possibilità, nel senso, è che non lasciare la casa da solo, se non avrei avuto la casa me l'avrei già andato fuori. Mi devi andare fuori a cavaliere. Non è nulla, non è una massa di figli di qua, non ci sono differenzioni, non ci sono differenzioni. Ah, c'ho il cazzo qua. In Svizzera cazzo 3.500 euro di stipendio di busta, in Svizzera, nella zona di Zurigo, Panama Piatti, 3.500 euro. Io non che ti dico, farebbe da culo. C'è perdere. Non è possibile qua. Non è più possibile andare avanti così. Il lavoro deve svilupparsi, bisogna lavorare. Ma dico, cosa vogliamo fare ancora? Io non ho capito cosa vogliamo fare. Vogliamo fare ancora così? Io sinceramente mi sto già rompendo di balle. Devo trovare una soluzione perché non è possibile. Cosa fai? Si chiama che soluzione non ha mai già fatto soluzione. Che soluzione è tu? Lui c'è nel peggio di te, tu lascia perdere, tu almeno c'è una casa, e quelli che non c'hanno neanche una casa, cazzo dorme di manca, dorme di vura, aiuto. È sempre meglio, cioè non è possibile assolutamente non è possibile, però bisogna cercare una soluzione che non si può tirare avanti così, eh. Ui, no, non campi, vivi di merda, perché se c'è una macchina, c'hai una moto, è tutto un insieme, non ce la fai neanche a pagartene. Vuoi dire, lei è moroso, ma come te cazzo fai a pagarti le cose? Come faccio io a pagarti delle cose se non va giù di là? Cioè sei tu che le devi dare a me, fatti da danarsi, non io a te. Lo so, è un casotto. Lui ha sa, mi adesso hanno asfaltato lì a, questa che hanno asfaltato tutto lì dove c'è la, la madonnina. Ho visto, era pure ora. Cazzo, era tutto bucchi, voglio vedere se racconta, non è solo una rivocazione, no? Sì, che sopra da niente, mamma mia, una cosa così pericolosa. A predare tutto bucchi. Poi c'è quel caseggiato che sono minimo più di 20 anni così. Beh, quelli però c'è il consorzio che deve. È un casotto. È un casotto, Antonio, è un casotto, una gente che se ne sbatte i coglioni, mangia solo e basta. Oh carità ragazzi, per carità. Sono rotto di balle forte. Se non si sviluppa lavoro, io purtroppo devo prendere un'altra strada, perché no, non ve la posso, non ce la faccio a stare così. Lascia aperto per andare, è che c'hai un figlio, come cazzo fai, non puoi lasciare il figlio cazzo all'asti. Tu dovresti trovare il lavoro qua, il lavoro devi trovare qua. Fossi stato da solo, vabbè, cazzo, tirarmi le culo, mica mi si basta. Perché chi lo sapeva? Io avevo mia moglie, avevo, cioè, le cose, poi non stava, la verità, nell'ultimo periodo non stavamo male, la verità, perché qualcosa è andata un po' meglio. Cazzo, ma adesso è tornato nel declino, il declino, ma appena cazzata, voi ci ha giovato a pagarmi la corrente, ma ti rendi conto? No? Cazzo, io sto cercando una che mi mantiene, cazzo, non è so, ma anche una che ha 90 anni, basta che respiri. Ah. Non è che c'è un problema. Basta che respira tu, che c'ha il cazzo solo, mi mette a fare tutto. Lo so. Oh, io veramente no, cioè, non lo so proprio più cosa fare, cosa. I giovani sono soli, e gli anime si battono, perché quando non c'è lavoro, non c'è niente. È normale che se ne vanno via, cosa che sono fatto? Ho fatto un cazzo, io lo stesso, non avevo 20 anni, ma sono andato su, a Milano sono cresciuto 22 anni, non arrivo. Sì, vabbè, anche la famiglia. Vabbè, però stavo lavorando. Prima della famiglia dico, io sono andato per lavoro. Lo so. Ma cosa vuoi che ti dica? No, non è possibile qua. Non è possibile veramente. Vediamo, sai, io che c'ho benzino devo darle pure un futuro, cazzo, devo mettere le cose a posto perché non è possibile. Quello adesso devo dare più il futuro, nel senso di pensarci di tutto tu, a chi l'altri non pensi, perlomeno la tua famiglia penso che ti aiuti, sorelle o fratelli, cognato, quello che sia, penso che ti aiuteranno, e se no è da spararsi. Lo so che no, però cioè, mi aiutano, però molte volte sembra che si ne vuole lavare i mani, cioè, non lo so. Ma domani dovrà telefonare agli seguaci, voglio vedere se mi danno almeno questi soldi della cosa, dell'incidente. Ma te l'ha pagata ancora? Tu? Cazzo, da Torino, a mio padre, cazzo, è caduto, ti ha ripagato subito, dopo un mese e mezzo ha ripagato. Ancora nulla, dice che è colpa della Banova. E cosa? Adesso il telefono è qua. Io stimo una cifra. la chiudiamo qua, dammi 6-8 mila euro e via. Certo, 8 mila euro, io 8 mila euro non li avrei accettati, lui, cazzo 8 mila euro. Sì, facciamo anche 10, non ci prendere, ma guarda, se me ne hanno 8 mila chiudiamo tutto, ma fa il culo. No, non sto lì neanche a 8.000 euro, per un po' ci campo bene. Lo so, ma non so un cazzo, per euro, non so niente. Se te sono la piccola. Tu dovevi metterci la boccata, vedrai che ti pagavano subito loro. E come pagavano subito? No, perché prima dovevamo scoprire chi era quella che aveva fatto il lavoro di merda. Dove ti era successo? Ma dove era un incidente? Agraria. Pensa giù, via. E da un po' di sartori adesso di telefono dico, di guardi, cerchi di stimare una cifra, se mi va bene, con questi qua li mettiamoci d'accordo, se ci vado proprio ci vado domani. E io dico, se mandava la chiudiamo qua, se mi va bene, se no non va 2.000 euro, dico da ammazzarsi. Fa 2.000 euro vai da ammazzi. Dico no, poni l'avvocato. Loro ti dicono un prezzo bassissimo, tanto loro dicono, pensano, cazzo ha bisogno, prende quello che gli diciamo, sono passati questi qua della situazione. Cappa, no io, domani sicuro che ci vado, glielo dico, lei gli faccia fare una cifra, se a me mi, glielo dico, se mi va bene, tanto sappiamo che sono loro, se a me mi va bene, la chiudiamo qua che io non ho giudizio a girarmi le balle, almeno un pochettino mi metto un po' a posto perché cioè, c'è un po' di roba da pagare, un po' di casini miei, almeno a respirare un po'. Ma gli affitti pagano questa, non per farmi la fare meglio. Non credo che sia con pagare. Anche se no si attacca la mamma di Margosa ieri. Lo so, devo sfratto pure, vera. E cosa? C'è un po' di casini qua. Queste cose qua non basta fare in fretta allora, ma l'altra resta disperato. Quando vuole che non paghi. Se io mi faccio cazzo per dominio, burro. Pago più col dominio che affitto. Lo so. Infatti. Lo so, purtroppo è così, ma chissà cosa, bisogna metterla a posto, bisogna metterla. Cioè almeno, cioè darmi una cifra ragionevole in modo che io posso pagare tutto, non ho più problemi con nessuno e cosa, mi posso pure una vacanza, vaffanculo. Guarda, io se avrei avuto soldi mi avrei preso un camperino, un bel camperino, cazzo c'è gente che ci vive, guardo sui gruppi su internet che vivono nei campi, cazzo non vale nei pesi di coso, i luce, nei pesi di condominio, ne affitto e balle varie. Tu che sei solo lo puoi fare, caspita. Lo puoi fare, non avevo un'idea, volevo essere alla sera, avevo un'idea. Io voglio fare un camper come si deve, per viverci ci vogliono un bel po' di soldi. Non è un camper così per andare in vacanza, no? Allora, un camperino, ne ho visto uno, 10.000 euro, ma se vedevi questo camper, cazzo ti mettevo le mani in testa come era. Tutto c'era, tutto. Anche il gruppo c'era, che ci vuole il gruppo quando deve avere la luce, l'acqua e maleva. Tutto, non mancava né televisore, tutto quanto. Era un 5 posti, letto, fatelo conto. E ti muore i kiwi a cosa? Ti muore i kiwi a Platamona e sei da Dio. Non sei da Dio, ma ti ne fare i kiwi. Un giorno cosa vuoi? Te ne va a Santa Teresa. Ma è Potete andare dalla nostra parte ancora. O magari per non sprecare molto gasolio, puoi andartene anche un periodo lì, quando non c'è nessuno, che non è casino, compreso. E puoi stare lì, ci sono i parcheggi, lo parcheggi lì. Il campo è bello. Io guarda, lo volevo prendere quando ero ancora a Milano a lavorare. Poi mi è andata a male anche col lavoro, tutto quanto, ma lo volevano vendere 3.500 euro al campo. Uno che vedeva a campo, un amico che vedeva a campo. Ma bello, bello era. Poi non ce l'ho fatta a prenderlo per problemi di cosa, non ce l'ho fatta, di soldi. E quindi no, niente. Io sono sempre intenzionato a prenderlo. Mai dire mai nella vita. Mai dire mai sì, perché se dico una cosa a quella e se me la voglio prendere me la prendo. Lì un camper già ci sta bene, perché in anni dove vuoi te ne vai e via. Non è come vivere nella casa, però ci vive lo stesso nel campo, lo si apre a Maeva, lo si vura, riscaldamento c'è il pannello solare, la corrente e tutto quanto. Quindi. E vai dove vuoi. Certo, c'è uno che del sistema, uno che abita a Milano, che conosco, è uno che del sistema, fa impianti, tutto qua. Cazzo, ma se mi vedi come le fa, cazzo, ti metti le mani in testa. Sono molto belli, sono tenuti bene e tutto. E c'è gente che addirittura va proprio a lavorare. Io ho sentito di gente che sanno dove, per esempio la raccolta di pomodori, la raccolta di questo, sanno i mesi, c'è gente che sta in giro, sanno i mesi e vanno a lavorare nei campi, capito? Non c'è bisogno, basta che sai dove è il posto, dove c'è lavoro, anche da internet, guardi da internet, c'è lavoro, pile e passi col campo, ti fa la tua stagione, quando finisce la stagione, ti sposti da un'altra parte, che hai sempre davanti, da una macchina là, e ti sposti, quindi vado davanti di pure. Appunto. C'è gente che proprio fa quel tipo di vita. Io conosco un ragazzo, non so di anni che non lo vedo più, conosco un ragazzo che sa dove c'è il lavoro, va, c'è il camper, sa dove c'è il lavoro, va e lavora. È così, no, ma già bello, avverrò uno, cazzo è bello. C'è la Giacomo pure, Giacomo di lui, cazzo l'ha pagato 3.500 euro. E io ci sono stato in quel campo lì, cazzo si sta bene, veramente c'è il cucinino, c'è la letti, c'è il divanetto, c'è tutto, c'è il televisore, tutto quanto. Sì. È bello. Solo quello che devi fare, se lo fai italiano, queste cose qua, quella è la minima cosa che devi fare. Beh, la macchina vuole tenuta efficiente, vuole tenuta bene, se no ti molla pedi. Sì, vabbè, altro dai, ti lascio un attimo che devo fare alcune cose, casomai se sei qua già ci sentiamo. Sì, ci sentiamo. Tanto. Vabbè, Billy! Ma non c'è un po' di turismo sicuramente. flessione 10, cambio. Ho la flessione 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, canale 10, ecco. Chi è avanti? Attenzione 10, ecco. Hola, chi è avanti? Già, ci sei? E già. Certo, guarda il muro, c'è la bisacca, la bisacca, quello che è più là. La bisacca, io ho capito chi è. E vabbè, almeno danno un po' di decco la plantamona che stava finendo proprio, sembrava un mussuggio. Hanno buttato giù le gabbine, hanno fatto solo disastri. Sì, no. Però se va presi troppo avanti, non lo so, perché chi è caro, ma adesso organizzerà matrimoni, come da quando c'era cosa, capito? Organizza matrimoni, tutte queste cose qua. Ah, ma penso di no, perché se vuole farsi conoscere, vuole che ci vada gente, vuole farsi la clientela, deve adeguarsi un po'. Dove lavora San Vedio, c'è l'altro locale, quello vicino, la pizzeria, cose. Dove lavora San Vedio? San Vedio hanno, con domenica scorsa hanno chiuso la pizzeria, capito? Ma fa loro non c'è più il Pegasari? Non ce l'ha più, lui si è trovata in, come si dice, la data in gestione. Quindi sapete dove sta lavorando? Lì c'è la via della torre lì, c'è un, come ti posso dire, dove si fermano gli autobus, il tram, ci sono dentro una spiaggia proprio quelle tipo di pizzeria, lì dentro sta lavorando. Ah, ho capito, sì. Ma all'interno, quella che c'è all'interno oppure quella che rimane sulla strada e ti fa le pizzette al taglio, eccetera? No, all'interno. Ah, ho capito. Vabbè, c'è sempre che lavora. Quanto c'è la bocca? La lavora pure un bel. Ma tu, ma adesso ho mangiato? No, ancora no. Ho però mareggiato nel camaretto perché l'ho fatto in terra. Vabbè, dimmi già. Il bambino piccolino. E allora? La mia creaturina. C'è la gabbietta, perché è già dentro la gabbietta. Cioè. E io c'è tutto. Che fa? Purtroppo la legge, purtroppo non le balle. Me lo posso portare lì se vuoi, non è un problema. Almeno poverino anche lui. Cammina, fa. Se li faccio da mangiare, altro poi ci sentiamo a tempo. Eia! Ma quando è il segnale già, sempre a fondo con lo scarto, sta funzionando tutto, sì. Eia, tu, si dà di via lì. Andate. Sono un apparecchio per attaccarmi, non mi attaccano nulla. Lo so, ma si vedono le antenne. E quello che sono vicini, dai. Tu dici che da casa tua mi vedi? Beh, non io, le antenne si vedono, le antenne in linea d'aria si vedono, capito? No, ma sono soddisfatto, cazzo, spinge parecchio, spinge. Sono soddisfattissimo. Anche a Porto Torres, Santiago Nove, da come si chiama? Hai capito? Ma capito, è un po' di 9:40. E oggi? Eia! Arrivo un bel porto da Gabbino. Eia, è bene. Andà bene, andà bene. Ciao, ma arrivo un po' davvero. Di quella zona di Blattanoma, c'è cosa dice che arriva con lo scala? Vabbè. Come si chiama quel CB che smodola ogni tanto? Non mi viene. Dove? Quel CB che smodola a Blattanoma. Da Giovanni Stacco dice che gli accendo tutte, da fondo scala adesso. Ma non si è più sentito? Ogni tanto. Perché sta facendo il viaggio in continente, mi pare, ma è sabato tutto. Ogni tanto già ci sentiamo. Io non l'ho più sentito. Siamo visti all'altro giorno, una volta siamo andati al bar insieme. Sì. Sì, capito. Io adesso mi trovo, sai cosa faccio? Sono stato ad asciugarsi a camale. Vado in bagno, disinfetto tutti i sanitari, c'ho la mucchina, c'ho. E poi... come si dice? E poi la puoi in terra. Ma adesso? Allora non usciamo. Adesso... vabbè dai, io faccio da mangiare al cane adesso, dai, che la devo cucinare la gomma, se no, e poi la devo portare in giù, ok?